sta emergendo quella che un certo grado di approssimazioni possiamo chiamare verità. All'inizio sembrava un'aggressione di militanti antifascisti, in questo caso appartenenti alla Jeanne Garde, che è un'organizzazione che è stata dissolta per via amministrativa, che avrebbero aggredito dei non fascisti all'interno, all'astere di una contestazione che questi facevano attraverso il gruppo femminista nazionalista Nemesis a quello che era un'iniziativa fatta a Sciences Po, all'università, con la partecipazione della deputata, della eurodeputata della France Insoumise, Rima Hassan, cosa che in realtà è stata smentita abbastanza presto, perché i fatti che hanno portato poi alla morte di questo militante identitario si sono svolti molto a distanza, sia a livello temporale sia a livello di spazio, e i filmati chiariscono in maniera abbastanza inequivocabile che c'è stata un'aggressione da parte di questi gruppi, che a Lione hanno un forte radicamento da più di una decina di anni, e con una risposta. Quello che tra l'altro nella ricostruzione rimane una zona d'ombra abbastanza forte è il tempo che è intercorso tra questa, diciamo così, aggressione che c'è stata, questa, diciamo così, confronto fisico tra gli antifascisti e i fascisti, e il momento in cui questa persona è stata portata in ospedale. È chiaro che immediatamente, con una tempistica perfetta, da Presidente Macron agli esponenti del governo, questo episodio è stato utilizzato per screditare e delegittimare quella che è la maggiore forza della sinistra francese in questo momento, che è la France Insoumise, e delegittimare la pratica di autodifesa che gruppi come la Jeanne Garde mettono in atto da diversi anni. Infatti abbiamo letto anche delle dichiarazioni di Hollande, l'ex presidente francese, che diceva i socialisti non si alleeranno mai con la France Insoumise. Questo può avere anche delle ripercussioni, diciamo, nella coalizione, nel fronte, anche per opporsi a Le Pen? Uno, siamo in prossimità delle elezioni municipali. Grazie a un'organizzazione della France Insoumise, per la prima volta la France Insoumise diventa un soggetto che alle elezioni municipali esprime dei propri candidati e una propria presenza organizzata, cosa che fino a questo momento, trattandosi in precedenza di un fatto, di una forza che era una macchina elettorale, però sulla questione presidenziale, le elezioni nazionali, non era successo. Quindi è chiaro che questo è un primo elemento. Il secondo elemento, naturalmente, sono le presidenziali, in cui l'unica formazione in grado di battere per consenso che riscuote soprattutto tra i ceti popolari la Le Pen e il suo discepolo Bardella è la France Insoumise. Il fatto di avere un candidato più compatibile, diciamo così, è una politica della destra del Partito Socialista e di Glucksmann che svolge questo tipo di funzione. È abbastanza paradossale che in tutti questi anni non sia parlato delle violenze fasciste che sono state ripetute, sono state anzi legittimate, alcune delle quali a sfondo omofobico o razziale, e siano nati dei gruppi di autodifesa per assicurare i margini di tenuta delle iniziative politiche, come è successo nel caso di Sciences Po, ma è abbastanza significativo, e invece si è utilizzata questa cosa qua per criminalizzare la France Insoumise, le reti antifasciste, e completamente rimuovere la questione della presenza sempre più protagonista e violenta dell'estrema destra in Francia. È una dinamica che però, insomma, non è solo francese, perché vediamo anche in Italia e anche in altri paesi questo spauracchio della violenza che verrebbe agita dalla sinistra, quando poi le bravate dell'estrema destra, chiamiamole così, come dire, hanno oramai campo libero se non legittimazione. È un fenomeno europeo? È assolutamente un fenomeno europeo. Fenomeno europeo, l'ascesa di forze politiche, chiaramente di estrema destra, che da sondaggi preelettorali hanno un ampliamento del proprio consenso, si pensi al fatto che Vox è il terzo partito politico in Spagna, qualche punto sotto il PP, che è la forza tradizionale, si pensi all'ascesa della AfD in Germania, o per tornare alla Francia, diciamo così, l'ex Front National, che diventa un soggetto politico fondamentale per le dinamiche politiche complessive, mentre era sempre stato marginalizzato dall'arco costituzionale, come viene chiamato in Francia. La questione importante e nuova è l'utilizzazione di questi gruppi che trovano nel contesto di guerra, criminalizzazione dell'immigrazione, regressione autoritaria e reazionaria, uno spazio che praticano in funzione anti-sinistra radicale e dei movimenti. In questo caso in Francia la cosa è eclatante proprio per il livello di violenza e omicidi che ci sono stati nel corso di questi anni da parte di esponenti dell'estrema destra.